difficilmente mi trovo da solo. Allora, al limite posso andare, se mia moglie ad esempio fa lezione, io allora, al limite posso, ma posso uscire anche con mia figlia, se magari mia moglie ha mandato mia figlia a comprare qualcosa in qualche negozio, eccetera, come è stato in questi giorni, per la spesa, eccetera. Lei aveva le lezioni, aveva, e allora non poteva assentarsi, non poteva, e allora diciamo che ha messo in azione sia me che mia figlia, capito? E le cose vanno avanti in questo modo, Gianni. Poi bisogna andarci anche cautimi con le spese, Gianni, perché i soldi ci impiegano un sacco di tempo a guadagnarli e metterli da parte, ma a spenderli fai un attimo, e non è che devi fare così, tacchi. Bisogna sempre pensare che sono un pensionato, che devo andare avanti con la pensione, poi il resto è, naturalmente è una garanzia, questo è ovvio, però bisogna sempre ritenere anche. Ha ragione Claudio, io la so quanto è dolore, la vera serietà, bisogna cercare di spendere sempre piano piano, ma non perché siamo tirchi eccetera, ma no, perché effettivamente così, se no non avresti molta strada da fare, capito? Avanti qua. Sì, va bene, io sto ascoltando anche, allora siamo un po' da tutte le parti, perché comunque sono qua a partecipare, non c'è problema. Io beh, i viaggi li possono fare, se ancora ne hai voglia di viaggiare, io qualcosa l'avevo fatta, ero un po' più giovane, poi basta, mi sono un po' ritirato adesso. Sto facendo una formica, mi ha regolato un po' di cose, come si dice, in senso reso di ossigeno, chiamiamolo così, e quindi stiamo cercando di fare una formica, perché non si sa mai, io non voglio andare in pensione, e se non mi mandano me ne vado lo stesso, farò un altro paio d'anni, quindi basta così, 9 volte più, sono tutto a dolore, tutto... Sono con tutto rispetto, non ho 80 anni e forse ce ne sono meglio di me. Oggi non riuscivo a muovere, mi sono fatto tutto a pezzi, con le braccia, la schiena, col collo. Ma così, mi voglio ritirare e quindi sto cercando di capire, di volere, di investire, se ci riesco, se va bene, se non va bene, pazienza. Viviamo lo stesso, non cambia assolutamente niente. Roberto. Come pensavo tu fosse a Gianni, dai. E vabbè, ma io dico di spendere tutto, ma un viaggetto a me mi sarebbe piaciuto farlo, per quello glielo consigliato. Un bel viaggetto di quelle navi da crociera, da sogno, là. Un viaggetto romantico con tua moglie. Ci si fanno quando uno ha un'età giovanile, no? A 70 anni. Capita, Sì, tu mi dai, e se fa sempre piacere, indubbiamente fa sempre piacere, questo non ci sono nulla. Comunque, i viaggi li facciamo lo stesso, ne abbiamo fatto diversi insieme, anzi adesso stiamo programmando per le prossime tappe, ci hanno invitato ad andare a Brescia, abbiamo degli amici a Brescia, prima abitavano uno a fianco all'altro, quando io abitavo in un'altra casa, poi loro per questioni di lavoro si sono trasferiti, se ne sono andati a Brescia, se ne sono andati, e mi ha detto veniteci un'estate, siccome sono venuti anche loro qua, no, e abbiamo ospitato, li abbiamo, quando, perché giustamente abitano a Brescia, poi vengono qua e se li trovano senza niente, si può dire. E allora l'abbiamo ospitato, dice, venite, dice, a Brescia, non vi preoccupate, dice, vabbè, vedremo, no, non vedremo proprio niente, se vi telefoniamo e vi obblighiamo a venire quando è il periodo delle figlie, vabbè, staremo a vedere, adesso vedremo quando è il periodo delle figlie, luglio, agosto, che cosa succederà, è interessante, ed essere sempre in buona salute, poi le decisioni si possono prendere anche da un momento all'altro, non è detto, come ho fatto diverse volte, e qualche volta mi è venuto a capo e gli ho detto, beh, aiuto, cosa facciamo? Io andiamo a Milano a vedere Juventus 1000 per dire, no, e così via, capito? O meglio, 1000 Juventus, capito già? Io sono fatto anche così, in questo modo, non è che fettina, non è che guardo le 100 euro, eccetera, se c'è da fare un viaggio e devo da vedere una cosa che mi interessa, vado, li spendo e ciccia. Cosa che invece non faccio, ad esempio, con le apparecchiature di elettroniche. Baracchino, baracchino oggi, baracchino mi tengo. Ma può darsi che un domani mi salta in mente, magari mi compro un bel HF, chi lo sa, ma tutto sommato a me personalmente non mi serve. Non mi serve perché non ho patente, voglio studiare, non ne ho. Dunque, anche se sinceramente parlando mi piacerebbe molto, è la verità. Ad ogni modo, la vita è ancora buona e vedremo un po' che cosa succede in seguito. Avanti qua. Claudio, in 40 metri sicuramente sta parlando con Walter, senz'altro, ne sono più che convinto. Poi, dopo glielo chiedo, casomai. Avanti, va bene. Figurati, 58 euro in più di quanto si dovrebbe pagare a Sassari. Sono per io adesso giovedì cos'è domani? Non lo so se ce la faccio domani se ho i campioni, domani secondo me ci fanno campionato perché ho campioni mercoledì, però già la festa faccio domani. Avrò l'Arpas, quindi faremo un giro per i campionati, poi lo porterò a Punta Navolina, quindi a Canega. Passando a Proganiego domani mattina. Passo la ordino con l'antenna, perché mi serve per fare appunto i 10 metri full side, quindi a banda intera. È molto interessante con l'antenna lì. Con la speranza che a Pomino le siano arrivati con i rotolini, quelli che avevo preso tu, capito? Mi ha detto che li ho ordinati, vediamo un po'. Se non me l'ho ordinato, ne monto un altro, se la biglia è luce. Avanti, molto brutto. Diciamo che potrebbe andare meglio, ma per andare peggio è meglio così. Allora sì, ma ti metto a tutti i dini. Ti vanno la barracca e ti la campa, come diceva quello. Ma ci sei riuscito a cucinare questi cestini, allora lo passerò a prendermeli io e me ne mangio. No, ce l'ho ancora a casa. No, sono andato una volta solo oggi, ho detto basta, si arrangia, non mi deve portare con l'ottore, solo se l'è comprata la persona che li ha fatti e si arrangia lui. Ho spreccato un po' di benzina, ti dico la verità, ho fatto 5 volte, 6 volte, 7 volte con oggi il giro. Già, a me ci ho rinunciato tranquillamente. Riporti indietro e come hai detto giustamente se i mestieri ricontatti o ricontattano chi li ha fatti e si arrangiano, insomma, puoi stare tira e molla, era successo una volta anche a me che me l'hanno riportato indietro, ho fatto un gestino, ma giusto così a livello amicizia a un carissimo collega di lavoro, poi è diventato un dirigente, quindi io ho fatto un cestino e lo avevo mandato con addirittura CDA, ma non riuscivano mai a trovare alla fine questo cestino, era girato da Natale fino all'Epifania e poi alla fine ho scoperto che l'avevo trasferito di correre lì, c'è un lavoro, quindi si era trasferito anche lui come casa, ecco, tutto lì, e ero riuscito poi alla fine a mandarglielo tramite sempre l'SDA. Ma può capitare, magari qualcuno è fuori, qualcuno capita, quindi c'è questo buco, va bene. Giulio, a te. Ok, i master no, e che hanno visto alla cosa, voi non tengono il motoriale, state parlando, quella funziona anche in 10 metri in ogni modo, c'è la salvatore quella antenna lì, costa 158 euro quella, tutta in fibra di vetro, non so se state parlando di quella come antenna. Elementi massimo 104 cm, peso 850 grammi. No, con le menti, per le buche, fino a che non c'è molta attività, non mi interessa per il momento. Io la viaggi sempre per le contenne, non con le menti, già so rottare, gira tranquillamente, fai attività così. No, Giulio, montare quella lì è grande, sembra piccolina, ma è grande montare quella direttiva lì della Sigma, va bene. Ma oggi l'infrastruttura mi sono portato a casa il tubista nostro, abbiamo fatto la prefabbricazione a sorso in officina. Tu immaginati un tubo Naisi in acciaio scheduola 40, che ci abbiamo fatto il matto per portarlo su da 3 metri, da 3 pollici grosso, scheduola 40 è pesantissimo, da 3 pollici. Ha preparato le selle, proprio da 3 pollici, le selle proprio belle proprio da andare sul tubo, con i tirafondi da 24, quindi il tubo sollevato a nudo, il telescopico dentro, sempre acciaio ossidabile, da 2 pollici e mezzo, con i perni passanti in acciaio ossidabile, quindi un lavoro che non viene bene a dirlo. Tutto gli debrici tra l'altro, e quando abbiamo sollevato tutto pronto, ho detto ok, me ne posso andare, vai bene, grazie di tutto. La gabbia sempre tutta con cui c'è poi di spinta, fatta sempre da lui. Ma cosa io non ho mai fatto in 40 anni arrivati, un lavoro finito. Ho montato l'antenna, ho montato tutto, sono sceso giù, faccio girare, ma io non c'ho il rotore, quello piccolino che fa il dettolino, quello ce l'ho sulla Iagina, ovviamente che è leggera. Qua c'ho il rotore, il G400 recidola Iaeso, che costa tra l'altro una barca di soldi, più di 300 euro. Col control box è tutto illuminato, grande, è bellissimo. Giro, sta là, arriva a 330 gradi, pum, e si blocca, tu ci stai, c'è un regolamento mancato, è pure acceso. Vado per tornare indietro, niente, non si muove, nulla. Infatti il control box, siccome è praticamente allineato col rotore sotto, mi segna la bussola del control box sempre a 330 gradi. Non c'è più per sbloccarlo. Allora l'ho smontato, l'ho aperto, sembra che sia andata e si è attaccata una pallina della girata del rotore e si è andata a bloccare l'indotto. Quindi bisogna aprirlo, bisogna farlo messo a parte. Quando sa con le ginestri verrate nella tascotta, fino a quando ti sistemi il rotore, monta l'antenna così come è, mette la puntata Nord America e viaggia la grande. Ho visto che stanno andando, però il motore l'ha messo. Ma guarda, le bestemmie, tu mi hai avuto anche il cacciavite, perché la stavo girando, portavo il cacciavite, il cacciavite, c'era un feltro, il cacciavite è grande, giù, fortunatamente non stavo passando nessuno, non c'era macchina parcheggiata proprio incollato lì. Perché sono prefatto anche l'anno, mi sono incazzato da morire, perché questi rotori sono una rottura di scatole. La stessa cosa mi ha fatto quello piccolino che c'hai tu, per giù la parabola quella, quello che prende Tonino, che sono micidiali, vanno benissimo, costano poco, per un'antenna piccolina va bene. La stessa cosa ha fatto quello, montato, finito il lavoro, ha girato per una settimana, non gli ho lasciato operazione, e siamo passati tutti a 144-300, mi vanno a parlare e sentivo sto spagnolo bacino sui 5-6 e ora forse mi giro l'antenna, vado a girare, non girava più l'antenna, anche lì lasciamo perdere, qua è meglio lasciare parlare, non ti succedono queste cose, lavoro finito, anche devo lavorare a 40 metri d'altezza, mi ha fatto il matto tutta l'estate, cavi nuovi, tutto lavoro nuovo, poi vado a montare due rotori nuovi, perché erano nuovi e non camminano, tutto lì. Dopo Roma, a te. A me? Sto facendo un'altra sorellina. Sì, ma è così qua, non lo so, di solito rotori creano problemi. Ho cambiato due, e speriamo che non mi succeda di nuovo, se no va a finire che la tengo fissa, non se ne parla più, e lascio perdere tutti i saltini, che non me ne frega anche se la lingua non lo parla, però riesce a capire tutto quello che sente, che ascolta e che vede naturalmente. E allora per quello che ho fatto, ma lo mettiamo nuovo, lo sarà di 90 euro che ci rovinano, figurati, non è un problema. Eppure rimane sempre a casa, una cosa che rimane sempre a casa, per me va sempre bene, non ci sono problemi. Capito? Ma è così, è così. Probabilmente la salsedine che si forma solo, ma che ne so, la pioggia e poi tutta la polvere, si intasano, è sempre qualche sferetta esce fuori o qualche ingranaggio che si rompe, funziona così, vabbè, pazienza, andiamo. Vediamo se Gianni riprende. Gianni? No, non riprende, vabbè, avanti vabbè. Sì, ma cosa utilizzi tu? L'attuatore, a pistone ce l'hai, la movimentazione della antenna, Giulio? Ho capito, la alimentazione dell'antenna ce l'ho io tramite il decoder, no? Che viene alimentato dal decoder direttamente, no? Quando cambio canale, con il telecomando, ciccia, non c'è niente di particolare, no? Scappa l'antenna normale, la discesa normale, cambi canale, o meglio, cambi satellite, il decoder stesso se lo cerca e si blocca così, capito? Al suo punto giusto. Sì, no, volevo capire se utilizzavi un posizionatore esterno, nel senso c'è il ricevitore che c'è un posizionatore, oppure è il lo stesso cavo antenna, però il motore che sposta la parabola è un pistone, quello a pistone o c'è quello integrato tipo quelli che vende Tonino dalla GBC? Quello che ho comprato, quello che era dalla GBC, era un palatolino quanto io l'ho comprato, è proprio quello, infatti quando l'ho visto non mi era sembrato un grande rotore, mi ha fatto ma sai, va bene, dice verrai, prendo la verrai che va bene, ma sinceramente l'ho messo un'antenna con quella motorizzata e da un metro qua ho visto che nonostante le raffiche di vento che si sono sentite in quest'ultimo periodo qua, allora va bene, sta andando bene perlomeno per il momento. C'era un periodo che mi si girava addirittura il tubo, no? Come vibrava il vento, la parabola vibrava, vibra adesso, vibra poi, e il tubo addirittura che si girava, si toglieva fuori dalla posizione, dalla puntatura del satellite. Allora che cosa ho fatto? Ho preso il trapano, ho bucato la staffa che è volata, ho messo un pelo passante tra la staffa e il tubo, così non si gira più, infatti quest'anno non si è girato per niente nonostante il vento fortissimo che ha fatto con il periodo scorso, capito? Sì, ho capito, vabbè. E vedete, quel motorino meccanicamente è un giocattolino, cioè anch'io ne ho preso già due e ne avevo anche un terzo nuovo che l'ha cambiato in garanzia, lo stesso difettoso. Il problema non è che quando ci piove l'umidità interna si arrugginisce l'indotto, per quello vi fa funzionare molto spesso. Tu il movimento che fai è molto breve, diciamo, con quel tipo di discorso della parabola non puoi fare più di 30-40 gradi normalmente, fai anche magari, fai che ne fai 50 di gradi. E infatti adesso continuamente lo sto facendo fare il giro completo in modo che non si blocchi e non si arrugginisca, perché c'ha un indotto che se lo vedi è ridicolo. Io l'ho aperto, l'ho tutto smontato, l'ho appoggiato su delle sfere che sono in ferraglia e come si arrugginiscono diventano un ammasso di luce, è uno schifo. Cioè infatti volevo proteggerlo, fare qualcosa, ma non c'è niente da fare. Io invece nella parabola c'ho quelli a pistone, diciamo l'attuatore, di lì almeno ogni 3 anni la devo cambiare qualcuno. A parte quella grossa che c'è un sistema a ingranaggi, quello in ghisa, non si arrugginerà mai, non si blocca mai, ma pesa 40 kg. Però un'altra cosa. E poi c'è un altro di sistema di motorizzazione di parabola, uno dei primi che ha avuto, tipo quello che avete voi, che ti fa la copolare da 45 gradi est a 45 gradi ovest. Quello è tutta una pressofusione d'alluminio grosso, è coperto l'acqua, lì non le può mai entrare, è un sistema particolare della Saab che era appena uscito, l'avevo preso da Grassi. Quello è eccezionale, quello c'è posizionato all'esterno con i gradi, mi indica digitalmente, c'è un indicatore digitale, mi dà i gradi di posizione, quello è bello. Però in banda, diciamo, banda di trasmissione non l'ho mai utilizzato perché fa soltanto circa, quanti gradi può fare, un 120 gradi di cosa, mentre in banda di trasmissione devi fare 360 gradi. Che non metti due antenne contrapposte, una in un senso e una nell'altro, per cui l'ho lasciato da parte. Avanti Claudio, riprende. Sì, confermo ciò che ho detto, solitamente una Gianni, vediamo se riprende. Gianni? Sì, mi stavo guardando il libro sulla Sardegna che mi hanno regalato. molto bella e molto interessante. Tutte le spiagge migliori della Sardegna, Cartine e via dicendo. Questo è un bel regalo. Bello, secondo il pensiero, molto bello. C'è anche mio cognato quel libro, molto bello, interessante, c'è di tutto e di più. Sicuramente c'è anche quella bella spiaggia della Ginara, molto bella. Ma lo sto appena aprendo, qua c'è Porto Pino, Porto Tramazzo, che quelle zone lì, a Teolada. L'isola è una guarda di Dio, guarda l'isola di Ginara, ci vorrebbe essere qualcosa, ho visto, ho sfogliato quello che c'è nel cognato, non so se vuoi quello, ma dovrebbero essere simili, ci sono bellissime cose, molto molto interessanti e soprattutto hai tutto riferimento agriturismo, tutte le cose belle che abbiamo in quest'isola che parimo abbandonate da Gesù Cristo. Avanti Gianni, riprende per Giove per Giulio. Sì, vai giù. Anche se dico la verità, adesso abbiamo internet, comunque diciamo che il fatto di sfogliare il libro è sempre bello, anche per il profumo che a me piace molto il profumo dei libri. Beh, noi allora, sì, a proposito di internet, Gianni, a me mia figlia per il Natale mi ha regalato il computer nuovo, il computer del bar, perché l'altro giorno mi sono lamentato, ma questo computer aspetta, è diventato lento, non si muove più, è più lento di una lumaca, lo devo prendere e portarlo ad aggiustare, infatti, vabbè, dice, quando vuoi, dice, lo porti, bene, me la porta a casa, mi ha comprato il computer nuovo, e invece, poi avevo ricevuto anche una radiolina transistor, bella, proprio come piace a me, bianco-nera, Juventina, e ciccia, è tutto lì, mentre invece per mia moglie la nuova, la televisione nuova, e vabbè, quella in condominio con me, poi ho ricevuto un giubbotto da parte di mia moglie, e cosa me ne faccio, ne ho 5 di questi giubbotti, e fregatele che già serve sempre, e non so che serve, ma vabbè, comunque, va bene così, non vedo problema, i regali si accettano di cuore, e ci mancherebbe altro, allora va bene. Sì, adesso poi in questo periodo i regali la fanno, io preferisco molte volte farli, mi piace vedere le facce delle persone che le ricevono, non ne ho ricevuto tantissimi ma sono stato apprezzati comunque, ho ricevuto un disco che infatti ho detto ma non me l'hai trovato, mia sorella mi ha regalato l'LP dei Ligos per California del 76, ancora ce l'ho fanato, è tutto nuovo, ho detto ma non me l'hai beccato, bello, infatti non ne trovi più di disco, quando l'ha visto mia figlia ha detto cos'è questo, un CD gigante, non sa nemmeno cosa è il LP. Ce l'ho anch'io, Robè. No, sono bello, sono belle cose, diciamo, mi ricorda la giovinezza. Sì, c'è Hotel California. Hotel California e poi c'ho un altro dei Ligos, ne ho diversi, dai. Già sono cose belle, dai, i regali si accettano di cuore e si fanno anche di cuore, cioè mancherebbe altro, va bene così. Ma questo computer già, appena che lo accendi subito a fare Google senza stare lì a perdere troppo tempo, sai come è, infatti è per quello che l'ha comprato, perché io mi stavo lamentando, dicevo ma questo computer non serve più, bisognerebbe portarlo a riparare, e mia figlia ha detto, magari bisognerebbe togliere anche tutto quello che c'è, perché c'è troppa roba, in memoria, lì, nel segnalibro, eccetera, sicuramente anche quello contribuisce a rallentare un pochino. Mi chiedo, ma che fa la voce, andate a comprare, anzi ha telefonato a un amico, perché lì ha un amico che gli vende i computer, no? E tutte le volte che le serve un computer, perché lì lo usa per lavorare, no? Naturalmente, ma non quello di base, quello è mio e basta, e gli ho detto a mia moglie, guarda, questo l'ha regalato a me, ma lo puoi usare anche tu, ma che ne è altro, non ti preoccupare, lo usi quando ti piace, non ci sono problemi. E siccome mia figlia ne ha uno grande per il lavoro, poi ne ha un altro in ufficio che se l'ha portato personale, poi ne ha uno medio e uno più piccolo, e poi ha anche il tablet. Tutti questi computer alla fine, vabbè, comunque, li usa perché quando va a fare i lavori se lo porta sempre con sé, e quando capita qualsiasi cosa che capita, anche quando va in tribunale per fare delle cose, come si dice, nelle udienze si siede vicino a fianco al giudice, perché lì come tecnico è quello che viene interrogata in quanto fa perizia eccetera eccetera, no? Tutte queste cose qua. E dunque diciamo che le serve e basta. Vabbè, io sinceramente non me lo aspettavo che mi comprasse il computer nuovo, anche perché ero intenzionato a portarlo a aggiustare. Io per me stavo pensando a fare con l'altro uno di buona maniera aiutare a aggiustarlo, ma poi non ho più sentito, ho fatto faccio rinuncio, già ce ne sono altre persone che lo riparano, non ci sono problemi. Avanti qua. Solo Luca, la verità, e riesce a farlo andare quando ha un problemino. certo non sarà un maestro, uno scienziato, però sa dove mettere le mani sicuramente. Raggia. Si arrangia, perché si applica che da uno che dall'altro, uno gli spiega una cosa, gli spiega l'altra, ne fa tesoro di quello che gli dico e poi lo mette in atto quando gli serve. Spesso non è che sono pratico, però diciamo le cosettine che mi interessano riesco a cavarne lo stesso, ma devo dire che sinceramente mi consiglio uno che non sa usare il computer. Io sono un po' come tecla, no? Sinceramente devo dire che non mi sono mai appassionato proprio a fondo, però quando devo guardare una cosa, ad esempio oggi mi ho guardato tutte le radio antiche, ero più di un'ora sempre girando pagine di radio antiche, belle, proprio bellissime, con prezzi e tutto quanto, se uno le vuole acquistare, eccetera. Per dire, no, ecco, queste cose guardo io, non è che mi metto lì a chattare come fa tanta gente, no, assolutamente, non mi interessa proprio. Se me ne sono su Facebook, entro, non me ne frega niente di tutte queste cose. Mi guardo le cose più essenziali, più, se vogliamo, anche più elementari, tutto sommato, dal momento che io non sono molto bravo a computer, capito? E allora tiro avanti così, ma mi va bene lo stesso, non è nessun problema, capito? Se no io avrei la maestra qui, mia figlia aveva innanzitutto fatto un corso di informatica, figurati, pure di non usare, lei sempre col computer, lui qualsiasi cosa che fa è sempre col computer, tutto aggiornato, tutto schierato, tutto, insomma, una professionista è giusto che sia anche così. E allora giustamente fa le cose per benino, insomma non sa veramente usare, sicché potrei anche chiedere a lui, ma non mi interessa più tanto sinceramente. Avanti, va bene. No, va bene, anche io non è che sia molto, molto pratico il computer, le cose indispensabili, le cose minime, quando c'è qualche problema chiamo a chiedere di dovere. Diciamo con questo ce l'ho già da un po' di anni, me l'ha venduto sempre Franco Delta 1, ha fatto un'operazione tempo fa, qualche anno fa, dal momento è sempre andato bene, non dico che sia velocissimo perché è un processore vecchia generazione, comunque va più che bene, non posso dire niente, magari c'è di molto molto di meglio, però diciamo non ha certo niente di un 1008 mi sembra sia di velocità, per cui è anche molto vecchio come apparato, ma tanto io lo uso più che altro per internet, non ho grosse pretese di fare cose particolari. Io lo uso per prendermi filmati di pesca, vado su Facebook, vado su eBay, mi guardo filmati di inseguimenti di polizia, scherzi, tutte queste cose. Anch'io certe cose già riguardo, sempre credo, già anche queste cose così, sì, ma cose serie veramente non le guardo, anche perché non le so cercare, capito? Però a proposito di pesca, se ti interessa, guarda che c'è un canale, una televisione che si chiama Mare, e lì parlano molto del mare, già, e dunque tu che sei appassionato di pesca, molto spesso e volentieri parlo anche di quello, capito? Perciò se ti interessa cerca, sintonizzati. Il programma, cioè la stazione si chiama Mare, il coso, no? Perciò ce ne sono di belle cose. No, io invece seguo molto volentieri quello coso, come si chiama? Di Max, e anche Fox. Quelle così mi piacciono, perché fanno fare delle cose quasi impossibili, certi lavori che fanno questi americani sono straordinari, veramente. Va bene, dai. Riprendi qua. Sì, questo è anch'io quello, lo guardo, però non sto parlando, sapete queste cose. Allora, mi sono spostato un po' su Focus. Poi mi hanno attivato per fare Mediaset Premium, e quindi c'è sport, cinema, documentari, eccetera, e qui ogni tanto mi sposto a vedere qualcosa del genere, ma la TV... Io a volte la chiavetta mi sto rinchiuso qua dentro a ascoltare tutto quello che gira nell'aria, di tutto e di più, e poi non faccio nulla, poi come scienza voi, la verità è solo col volume, metto a chiacchierare con voi perché non c'è niente da fare. È sempre il discorso che facciamo, no, da quando siamo nati, non venuto da là. Guarda, c'è per capire, no? per stare qua a scambiare due chiacchiere. Va bene. Comunque vabbè, per me non lo vuoi io, adesso se ce la faccio domani ci posso. Poi non ho fretta, poi tanto non ho terminato il lavoro, dottore, devo vedere se si può riparare, altrimenti lo compro nuovo e ciccia, e così viva. No, e poi sai chi via aspettare queste cose. E quindi non ho fretta, comunque me la faccio ordinare così la piatto sotto l'altra. Tanto traliccio ci sta, già va bene così. Ok, a più poi da italiani. E non te la mattana della testa, a meno che non c'è lo via Esu, cose costose, dove c'è il tappo riparando, quello lì 85 euro mi sembrava pagato io, qui lascia perdere, se ti metti a aspettare a farlo, ti interrompi solo il tappo e ti arrabbi, sono stato una sera, l'ho fatto a pezzettini, poi mi sono reso conto che non c'era niente da fare, perché si bloccano dei punti, poi vai a togliere, c'è un pannetto all'interno, un panno di blocco, come si chiama? Uno spinotto che blocca l'asse del coso, a toglierlo ci vuole Sant'Antonio, poi riesce a toglierlo, si spacca tutto, si marcisce, guarda, ci ho preso un bel tempo, addirittura ne avevo un altro, ti ho detto, nuovo in garanzia, che questo c'era dei problemi di blocco, che si bloccava senza motivo, non ho capito per quale motivo, perché ho cambiato anche il controllo, tutto quanto, alla fine mi faccio trovare una cosa, ho detto, vai, lo compro nuovo, non sto a mattarmi la testa, ci ho preso una serata per metterlo a posto, e non ho cambiato piedi, funzionava, poi si bloccava, alla fine ho detto basta, perché una volta che lo monti deve andare bene, non devi essere preoccupato che magari sta girando l'antenna, io me ne sono accorto dopo tanto tempo che l'ha bloccato, perché ero convinto che l'antenna stesse funzionando, e poi invece ho girato, ma l'antenna è sempre ferma, quindi alla fine ho deciso di sostituirlo. Mentre se c'è quelli della IAESU sono cose diverse, molto più sofisticati, più professionali i componenti, tra l'altro si trovano anche i pizzimi. Io adesso sto sfogliando qua su eBay la pagina accessori e c'è di tutto, ho visto anche i cuscinetti, gli ingranaggi dello IAESU, quello che c'è tu vari, si possono anche trovare. Vabbè, quello che faccio tutto, dottore, ce l'ho buttato, sto aspettando che arrivi la mattolino e lo compro nuovo, 80 euro. Ti ho detto, quello là, a me mi si è bloccato il G400 RC della IAESU, che costa 400 euro e passa. Ti ho detto, costa quasi 500 euro con il rotore, perché c'è il controbox elettronico con la bussola tutto illuminato, non è come il controbox che abbiamo, quello piccolino che c'è anche tu, questo enorme, grande, sembra una radio, capito? Mi sono bloccato purtroppo quello, è la forma a 330 gradi, quindi adesso bisogna vedere se c'è qualcosa all'interno, perché lo muovo, è fatto da muovere in ferraglia, quindi Marco mi ha detto, non si è staccata qualche pallina al cuscinetto interno, perché il moto lì va dentro il cuscinetto, oppure si è rotto un ingranaggio, qualche ingranaggio, non lo so. Quindi scusate, come non te l'ho dato attraverso. Quindi sicuramente qualcosa si potrà fare, non lo metto in dubbio, ma quello prima di comprarlo nuovo devo vedere se si può riparare diversamente, se sono costretto, ciccia, purtroppo la spesa devo fare perché non posso tenere le antenne così a polarizzazione orizzontale, puntate a nord, senza poter avere la possibilità di farle girare assolutamente, tutto qua. Avanti già. E dai, venga avanti, vi saluto che vado a mangiare, dai. Poi magari se coincide riprendiamo. Saluto tutti cordialmente, vi auguro un buon continuo a questo e ci sentiamo dopo magari se coincide. D'accordo, la tua buona giornata famiglia, a dopo se coincide meglio. Ok, ciao già, salutoni. La tua fine trasmissione, guarda, coincide con la mia, perché mi hanno già chiamato, sono le 8 circa, per andare a cenare. Ok, va benissimo così, non ci sono problemi. Sì, stavo ascoltando adesso quando me l'hai detto, Banda Cittadino, ho acceso il ricevitore, ho sentito a Vittorio e a come risorso, come si chiama, Vannino, però lo spento subito perché sto seguendo QSO qua. Vabbè, grazie per il QSO, anch'io sono costretto ad abbandonare adesso per il momento perché devo scendere giù a cenare, dai, se no gli altri mi aspettano e non sta bene. Grazie per il QSO, con la storia la mandiamo avanti, senz'altro non ci sono problemi, tanto più che a buon punto. Ciao Roberto, grazie anche a te del QSO. lezioni prossime per me, ascolto il finalino e poi chiudo. Avanti, riprendi Robè. Ciao Giulio, buona carica, buon tutto anche a Gianni. Mangiate tutti come vivere ai tempi di Gesù Cristo. Ok, a parte gli scherzi, dai. Cioè, mi piacere fare questo con voi, non c'è problema. Vai Claudio. Ma c'è un attimo di bianco, se mai voglio fare qualcuno. Quindi Giovanni, buona cena, ci sentiamo dopo, se coincide naturalmente, se lo vedremo prima. E c'è anche te Giulio, buona cena. No, non ti preoccupare, no. Siamo già rimasti d'accordo, la fretta non ce n'è. Con calma, tranquillità, senza problemi. Tanto qua è tutto in ordine, come hai visto, questa è una cosa supplementare che stiamo facendo, quindi quando è fatta e si piazza, si aspetta con calma e tranquillità, non c'è fretta. Ciao Giulio, buona cena, a te casa, la famiglia, eccetera, eccetera. Se coincide più tardi, altrimenti ti auguro buon fine serata, buon fine di festivo e ci riascoltiamo domani, ok? Ok, va, certo, vedrai poi quando sarà completato che cambierà anche un po' tutto lo stile di allenamento, eccetera, vedrai che verrà veramente una cosa bellissima, completa, diciamo. Va bene, ci sentiamo, grazie di tutto, grazie ancora per il questione, rinnovo ancora gli auguri e ci sentiamo nei prossimi, dai, ti prendi pure Roberto, io chiudo, ok, riprendi. Ciao di nuovo Giulio. E una cosa Claudio, sto guardando qua adesso, il cuscinetto di G-Spinta Iesu GS065, costava così tanto, 70 euro. Roberto, quando tu parli di rapporto della Iesu, della buonissima in capo, costano un sacco i pezzi, costano un sacco i rotori, sono rotori professionali, mantengono una barca di peso, ti girano, che è una canonata. Hanno addirittura il bloccaggio come quello degli ingranaggi nel caso di vento, cioè una cosa favolosa. Quindi adesso vorrei vedere se con quello che è partito all'interno non mi conviene ripararlo. Manino mi ha detto che si può riparare anche lui è bravissimo anche in queste cose perché li conosce, ne ha diversi. Quindi mi ha detto no, ci sono problemi, vedo un pochino, ma adesso sono propenso a mettermelo in macchina, lasciarglielo, farlo controllare lui che è più pratico, vedere un pochino secondo quello che mi dice lui, magari riesce a ripararmelo qualcosa perché lui neanche ha altri aspetti. Allora va bene, diversamente sono costretto a prenderlo nuovo o roba, hai capito? No, adesso sto cercando di capire come funziona questo cacchio, c'è la fotografia di questo registista, perché io volevo studiare un altro tipo, però sto cercando, questo non è pubblico, c'ha dei bulloni di fissaggio, vabbè, com'è, a cuscinetto normale o c'ha delle sfere esterne, come funziona questa cosa? Beh, la mia gabbia è una gabbia semplicissima, con la piastra sopra, c'è il master proprio, con il cuscinetto reggispinta gabbiato fatto a scatolato, ho fatto il tubista che ci abbiamo noi e c'è il cuscinetto normale, la misura del palo che è da un pollice e mezzo e basta, io non ci vado perché non ci devo montare grandi cose, mi va bene così, è giusto per avere il cuscinetto reggispinta, non sa mai che col vento mi spetti qualcosa, capito? Ma io ti ripeto, il mio lavoro è un lavoro da 3 metri, 3 metri e 50, forse 4 metri, ma tenendo conto che il palo è sellato al muro, già sta fatto, proprio sellato, nel vero senso la parola sellato, perché la sella va proprio ad appoggiare al tubo e va poi a entrare con i tirafondi, va 24, ci sono 3 tirafondi, 3 selle, 3 tirafondi, va 24, una sopra, l'altezza del muro da 2 metri e una al centro, quindi fate il conto. E perciò non ho grandi problemi, ecco, sono già in alto, non devo fare tralicci per far vedere le antenne da chissà quanti chilometri, a me non me ne ha fottuto nulla. siccome quando mi sento non mi rispondono, non faccio altro che dire lavoro eseguito, ma il mio lavoro rispetto a chi ha fatto dei lavori senza far nomi e senza nessuna invidia, io ho speso il tutto poco più di 500 euro, ecco, una cosa del genere, ma quindi non è che mi posso lamentare di pretendere chissà che cosa. L'antenna, l'antenna da là, ecco, hai oggi tre elementi, col kit dei 40, va molto bene, e dottore l'ho preso lì a Valghero da un ragazzo dove se ne è dismesso, però me l'aveva detto che era tanti anni fermo, quindi io senza fare nessuna manutenzione, vabbè, l'ho preso e piazzato, quindi la colpa anche la mia, prima di piazzarlo dovevo fare un po' di manutenzione, vedere un po' come si comportava, capito? Ah, vabbè, questo è il radiamatore di Valghero, ma a proposito del radiamatore di Valghero, tu ricordi Carlo, non quel Carlo il capo banda, l'altro che ci sentivamo la sera di Alghero, non ho più sentito come si chiamava, Carlo Bu... Ma era la parriglia. Mi pare, era amico di quello Cavallino, tu ricordi Cavallino, Pinangelo? Sì, Carlo, lo diventore. Sì. Non lo so, io Alghero come radiatore non ho più sentito assolutamente nessuno, anche Riccardo sta spostando la casa, insomma, sta spostando alcune cose, c'è questo che non è città da zero, continua, tutt'un, quanto mi gira le balle queste cose. Vedi che non lo dici, ti molla, la polizia si brucia, la natazione, si è bruciato, trasformatore in banda, si è bruciato le coliche, ma perché siamo gli imbecilli che non abbiamo capito assolutamente niente. Ecco, continuano a citare e mollare. Dovrei citare con la testa, guarda. Sto guardando la Cosuari, ma tu non ci sei iscritto con la sezione di Sassari, qua? Nell'elenco Ari di Sassari, non t'ho vista, tu ci sei, dove c'è Marco, Vittorio, questo bandino, eccetera, eccetera. Assolutamente, io ho fatto le dimissioni già dall'anno scorso, mi sono stanziato dall'Ari, è una cosa che non mi va, sono fatto una casella fino a Valcuru. Adesso ti abbaccio il volume, scusa Robert, ma mi stava già cominciando a far girare le palle. Mi sono comprato una casella postale a Bosio, perché qua Sassari costa meglio di mio, e quindi lavoro con la casella postale. E questa è la via diretta, e basta per il momento. Allora, attenzione, quest'anno vi riprendo nel 2013 per fare una volante di iscrizione, ma non, per il momento non ho preso nessuna decisione ancora, quindi ho mollato, dai. Ecco. Avanti Bretto. Ciao Fatto. Salutoni, buonasera, ciao Claudio, ciao Roberto. Capito da questa parte. Come state? Riprendi Roberto. Ci siamo un pochettino in radio stasera, stiamo facendo una bella chiacchierata, ci ho parlato un po' di tutto, sono andati via Giulio e Gianni, gli ultimi sono andati via, adesso sei rientrato tu e hai preso il posto di uno di loro. Di nuovo Claudio per Gianni Capri. 5 celle, ciao Capri, non si era mai sentito anche a te, tu sempre la vicina, io ancora un pochino poi mollo e vado a cenare. È così, oh, vabbè, non è una cosa che potrò andare avanti per mille motivi, per le critiche, per le continue lamentele da parte dei miei colleghi allenatori, che ho fatto sempre io, sia qua che non là, per mille motivazioni, per mille cose, alla fine mi sono rotto veramente le palle. C'è stato un po' così, un litigio interno, e quindi ho mollato e basta, non, per il momento non mi interessa. Ok, tutto qua, avanti Capri 2. Grazie Claudio, io ce l'ho stasera, c'ero un po' con Gianni, poi per il sonno, vi dico che ero vivo per le 3 ore che ero addormentato giù vicino alla stufa, e mangiare zero, ho mangiato roba per giorno di nuovo, roba solo dell'occhio, no, partendo la sai anche tu. Infatti me, adesso un pochettino di angolino già ce l'ho, dai, tra un po' vado anche io a mangiarmi qualche cosa. Ma ho mangiato in abbondanza, dai, non mi lamento, non posso dire niente. E stavo guardando poi tra, scusa Giulio, devo dire, scusi Giulio, Gianni, volevo dire, ci sono anche delle donne, c'è la moglie di Vittorio, la figlia e poi c'è un'altra Mette, lo stesso, ma quelle entrano in radio. Perché già, con la moglie di Walter, capito, con la Pina, quella la moglie di Walter, poi c'era la moglie di Vittorio, la figlia di Vittorio, certo che entra, perché no? Ma non è cosa, roba, non posso dirti queste cose, che quando ci vediamo, e qua che ci dobbiamo vedere, anzi mi fa sapere che appunto sei con quel parasole, e poi c'era un'altra cosa che dovevo dire, non me la metto più. Ma vabbè, il parasole, poi il resto devo fare io dal meccanico. Allora, riguardo il parasole, là. Allora, ho chiesto a diverse persone, però non ho chiesto direttamente a chi ce lo può avere sicuramente, perché non c'è il Furi, questo qui, è inutile che lo chiedo. Quello che mi aveva detto è che c'erano due tipi. Però, in ogni caso, non ti preoccupare, sotto terreno lo togliamo. Ho chiesto addirittura a nuovo, comprarlo nuovo, là. E dice Giorgio, nel senso che la domanda ha superato la produzione, per cui sono fermi, anche se tu lo vuoi ordinare nuovo, non viene. Usati, quelli non usati, quelli di concorrenza, l'idem, però la troviamo da altre persone, non ti preoccupare, tra l'altro te lo regalo io, è una cosa che mi sono promesso di darti io, non ti preoccupare. Ci picchia, e nuovo non lo fanno. Ma perché non lo fanno qua? Non ce ne sono più, nel senso devono riprodurli perché sono andati in esaurimento, cioè le scorte che avevano non ce ne sono più, cioè ti può arrivare anche un mese per ordinarlo, ma lo fanno avere, però ci vuole, può esserci anche un mese di tempo. Era capitato con dei ricambi noi di una, non mi ricordo che macchina era, la stessa cosa, non nulla, non siamo riusciti a trovarlo da nessuna parte, in tutta Italia, poi da Bari, da una concessionaria di Bari ne aveva uno, perché sono tutte collegate le cose, allora c'è Magherino di Torino, il nazionale, dove distribuisce per tutte le concessionarie, e quello è sprovvisto. Loro poi fanno il giro, l'interrogazione a tutte le concessionarie, dove ce n'è, allora lo mettono per dire a Bari ce n'è una, da Bari arriva a Torino e Torino te lo manda a Sassari. Però, siccome ho già chiesto, mi hanno detto che non viene da nessuna parte di questa roba qua, la ditta che lo fornisce di concorrenza ne è sprovvista, nel senso che lo dovrà rimettere in produzione perché non ne ha più, idem quelli dell'appunto, quelli dell'appunto lo sai dopo quanti mesi sono arrivati, l'appunto vecchio tipo parliamo, grande punto l'ho trovato e me l'hanno dato, dice se ne trova, quando sono andato alla Macedu la settimana scorsa mi ha detto ne ha chiesto 4 in una settimana, ne hanno chiesto, dice ad averne sinistri guai, dritti tanti di voi, sinistri niente. E io vengo uno sportello di panda, sono andato l'altro giorno con uno sportello di panda vecchio tipo, lo sai dove l'ho fatto arrivare dai Glaciers, non vi nera da nessuna parte a Sassari, tutti destri, sinistri neanche uno. Comunque là, te l'ho promesso, già lo sai io, le promesse le mantengo. No, non ci sono dubbi, beh, è perché, ti ripeto, hai visto come l'ho bloccato, dove c'era nulla, ne scende, capito? Vabbè. Diciamo si potesse ordinare nuovo e ciccia, no, non è quello il problema. Ok, poi quando ci vediamo ricordami, ti racconto un po' la situazione che stavamo dicendo. Avanti, capri due, riprendi. Io che grazie, riprendo. Io, diciamo, quando sono qui sono in paradiso. Immagino che avete parlato anche di radio stasera, roba. Senza dubbio, perché quando c'è Giulio, radio a galera come l'altra sera, così. Di tutto si parla, di tutto e di più. Ti piace questa radio, Giulio? Amici, scusa Giulio, Gianni. Perfetta, qui c'è il 910, che radio c'hai? Non è il 910. Ma ho detto che sei 9 più 10. Ah, ho capito, questo è il 910, avevo capito, no, questo è sempre la solita radio mia con un altro microfono. Ti piace, cosa dici? Yeah, benissima, e io come sto arrivando, lo vedi? Dimmi come arrivo. Il segnale è 9 più 20, radio 5 è buona, ottima, niente da dire. Io sto usando adesso, mi ho adattato l'altro giorno, quando era tutto a pezzi, ho cambiato il connettore perché era per giro la cambio 23, sto usando il Lafayette Telsat 924 col Turner più 3, va bene, no? Grande. E l'altra, quando voglio, c'è il control box con muto, hai capito? Adesso ho provato questa e ho visto che funziona, andrà a dire. Praticamente, è l'HB23 la stazione Pale, perché dentro è precisami, riprendi Roberto. No, no, già, vabbè, sicuramente ti sta aiutando comunque, è vero, no? Se no non l'ho rifatto dopo i 20, no, Roberto. Sì, vabbè, dai, non c'è problema, adesso stiamo solo dicendo constatazioni stiamo facendo. Poi cos'è che te lo dire, Claudio, me ne sono dimenticato, anche io sto sventiando, dai. Cosa fare quel microfono famoso che ti è piaciuto, Claudio? Ti ricordi quello lungo, eccetera, eccetera? Ma voi l'avete adattato su una radio, direttamente? Sì, Massimiliano Archimede ha fatto una cosa del genere, l'ho vista, molto bella, perché praticamente lo fanno lavorare con una valvola, non so il sistema, il modulo che usano, eccetera, però c'è molto spazio nel piantone e si riesce a far lavorare la valvola, quindi c'è tutto un circuito particolare, va molto bene, molto molto bene. Un bel microfono quello, un bel microfono, io ce l'ho a piantone così simile a quello, però è praticamente il piantone tipo MC60, si mette dentro il microfono, invece quello è a flessibile unico, con poi il microfono vero e proprio, diciamo, là, non c'è problema. Ok, cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non mi lamento. No, esce molto bene quella Donis con quella radio, va veramente bene, poi è regolata bene, lì appunto si tratta di fare bene la regolazione. E poi, come ho già detto, la spinta che c'hanno la radio Kenwood con quei microfoni lì a flessibile, a connettore a tripla conversione, nel senso che c'ha tre uscite, non vendo la. Adesso stanno tutta la sera camminando, quel problema di gracchiamento e cose del genere non l'ha fatto. Sì, adesso la lascio accesa un po' di ore, voglio vedere se si riprende, perché magari c'è qualche saldatura, come ha detto Fabrizio, qualche saldatura fredda, magari non ben fatta, perché tutta la sera attaccata non mi avete detto nessun problema di emissione, adesso la porto anche io, perché molte volte sentivo un gracchiamento in ricezione, non l'ha fatto per niente. No, assolutamente ti avrei avvisato alla grande, senza nessun problema, ottimo per la truppa, anch'io non mi avete detto niente, la regolazione che abbiamo fatto con questo 440 ho lasciato, quindi per me, da parte mia, va bene così. Avanti, Capri 2. Io mi devo fare arrivare il capo, non so se stai usando il 508 oppure il 908, io sto qua insieme, si chiama, aspetta, vedete, 508 si chiama, e mi devo fare portare il capo da Negrini per il Kenwood, non so se stai usando quello oppure il 908, che me lo compro anche quello, riprendilo per. No, questo è il 908. Sì, una bomba, è proprio, guarda, quindi si confermate che è superiore all'MC60, che la confermi? Le prestazioni di quei microfoni sono ad alto livello, quindi hanno equalizzatore compressore, sicuramente lavorano in maniera molto equa e stabile, bella forte, sicuramente riesce ad avere una timbrica come quella che ha ottenuto Roberto con le 440, con l'altro radio, non lo so, perché già abbiamo fatto mille prove, mille cose con Massimiliano che c'era uguale, però usa un altro tipo di radio e quindi la spinta sembra che sia inferiore, ma con la radio Kenwood è tutta un'altra guba, anche con 140 secondo me col microfono lavora molto molto meglio, quindi bisogna avere l'MC60, io sono troppo avanti, io anch'io adesso sono con l'MC60, ne ho 4, li uso in varie radio, che vuoi, ma non c'entra affatto, e veramente si è adatta moltissimo alla mia modulazione, tutto qua, però col microfono non è male, già. Ok, quale stai dicendo, la 508? 508 e il 508 sono simili, uno è con l'equalizzatore e l'altro senza equalizzatore. Io ce l'ho nuovo, però c'è un attacco per il coso, per l'ICO, però come apre Negrini, non so se domani apre, ho preso di no, e mi faccio mandare il caffetto, hai capito, per il Kenwood, e così che poi mi gira via più che l'altro. Ma no, è formidabile, vabbè, complimenti, guarda, una bomba, vabbè, una bomba, devi solo sentire, anzi lo devo tenere a minimo questa radio, proprio si sente perché possente la popolazione, pieno per. Però tieni presente, il 508 non so se riesce a uscire senza equalizzatore, perché qua io sto utilizzando l'equalizzatore. Guarda, questo è con l'equalizzatore, 1, 2, 3, prova radio, e questa è la posizione senza equalizzatore, per cui dove c'è il 508 uscirà in questa situazione qua. E senz'altro sarà così, dove infatti c'è un cambio notevole. Questo è con l'equalizzatore, per cui se vuoi un consiglio piglia direttamente il 908, non starci a perdere tempo, perché il 508 è come il 908, però senza l'equalizzatore. Se facciamo bene devi mettere per forza l'equalizzatore, se no esce la modulazione Q, qua anche stamattina l'abbiamo visto e non va bene. Tieni presente che qua sono al minimo di tutto, se solleva per appena guai, però non lo voglio neanche toccare, sono proprio al minimo uno di livello con le stesse regolazioni che faccio col 60. Il 60 sono uno di apparato, mentre con questo sono uno di micoso, di livello microfonico pure. Il capolessore è a posizione minima, basta, perché c'è tre posizioni e basta. C'ho l'equalizzatore tutto sollevato, le tonalità medie acute e acute e abbassate, in posizione centrale i medio bassi e i bassi attenuati. Per cui abbiamo fatto delle prove, questa l'avevamo vista tempo fa con Claudio e ho lasciato quello lì. Di equalizzatori, Roberto, in garage ho trovato un equalizzatore grafico di stereo degli anni 70, quando però te lo porto ancora nel pacco e se ti fa piacere te lo regalo. Occhio a non farmi troppi regali, perché poi non so come contraccambiare, dai. Anche l'altro giorno Claudio è venuto, devo contraccambiare per forza, dai. Ve l'ho detto, a me non mi piace, cioè, ricevere, preferisco fargli i regali, dai. Va bene, basta sempre una stretta di mano e un buongiorno, dovunque ci vediamo, non noi che gusto su problema, hai capito, non è quello il problema, hai capito, i regali, hai capito, io ti do sempre di cuore, riprendi Claudio. Lascialo dire a lui o Gianni che tutte le volte che gli ho chiesto qualcosa si è sempre troncato il collo, quindi è una persona che merita, che non è come dice lui, quindi lascia, quindi vabbè, che se le cose si fanno è perché hai un cuore grandissimo, perlomeno con me ti sei sempre comportato in una maniera molto molto molto tranquilla e molto onesta soprattutto, sia nel lavoro che fuori dal lavoro, perciò a tutti i fini. Ho già messo da parte un'altra cosa che è molto molto molto bella, per te soprattutto in quella stanza, è favolosa, quella te la porto appena due minuti, perché se me l'ho ricordato me la metto in vista, perché altrimenti poi mi dimentico. Ma è sicuramente quella la cosa che, a parte questa, ma quella la apprezzerai ancora di più, perché è veramente molto molto bella. Per te che sei un collezionista, è favoloso, la roba che c'ha Gianni è una cosa spettacolare, visto delle cose veramente allucinanti. Molto ordinato, molto preciso, è veramente ad hoc. A te e Capri. Buonasera a tutti, dai. Da questa parte è Antonio Bongolo. Dice Santo, metti, aspetta, rilanciamo a Pinuccetto, ti sento un mono di segnale però un po' bassino di radio, non so se mi ascolti Pinuccetto, avanti di nuovo. Vai Pinuccetto, Roberto. Costavo mezz'ora. Ok, comunque non ti copio, ha detto Roberto. Ciao Antonio Momolo, buonasera, qui da Capri 2, ti super cordializza con i migliori auguri di buone feste. Ti rimetto il cambio, Antonio, mi ascolti? Fa perfettamente bene Capri 2, buonasera, saluto, ne hai sentito. Non so come arrivo lì a Muros, però io qua ti copio bene, Santiago 5, Radio 5. No, ti ascolto anche questa volta, su questo apparecchio, un Santiago di 3, la radio non è molto alta, però riesco a capire quello che stai dicendo. Ok, perfetto, tutto bene, immagino. Io sono entrato stasera sul tardi perché mi ho fatto un pisolino, è cosa che non capita tutti i giorni. Ok, e rimetto di nuovo a Claudio Sparviero, avanti. Io ne approfitto, ciao Antonio, ben ascoltato di nuovo, buonasera a te e a tutto il corpo della famiglia. Vi saluto che è pronta la cena, se coincide a più tardi, altrimenti vi auguro a tutti un buon fine serata e un saluto circolare a tutti i vostri rispettivi. Ciao Pinuccio, ben ascoltato, ciao Gianni Caprino, Antonio Bombolo, a te Roberto. Ci vediamo in questi giorni. Saluto anche tutti quelli che sono ascolto. Microfono per Roberto, farà girare da parte mia QRT per cena alle prossime. Grazie a tutti del QSO. A te Robby. Ciao Claudio, ci sentiamo, passa quando vuoi, già lo sai, sempre, non c'è problema, buona cena, buon tutto, buona giornata, domani devi lavorare a proposito Claudio. D'accordo. Ah, mi sono dimenticato Claudio, auguri di buon Natale mica. Stavo cercando di chiamarti ma poi me ne sono dimenticato. Comunque, perché non ci siamo sentiti, auguri di buon Natale. Grazie, ho contraccambiato anche te famiglia, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, già va bene lo stesso, siamo sentiti in radio, va bene lo stesso. Ciao a te, buon proseguo di questo a tutti, riprendi e fai girare che va la cena. Ciao, ciao, ciao. Grazie, va bene. Non mi preso, ciao, tra, allora buonasera, buon tutto. Se coincide a più tardi, si nato a Ugana. Ok, Robè, riprendi, ti ha rilanciato Antonio Bombolo. Volevo capire, come non mi ascolta Pinuccetto? Attenzione Pinuccetto, se copi questa frequenza, aspetta proviamo un po', dargli qualcosa di più. 1, 2, 3, provare, attenzione Pinuccetto, da Buduso se copi la stazione di Sassari, avanti. Piano là fino a Roberto, avevamo dato una cosa. E te ha già bucato, nara, nara. Ok, a Giovanni, ho messo un po' troppo, basta a Gai, non è cosa lo altro. E se noi no, e noi che se no, c'è un casino di detto. Mi tengo questi per un buono che sono chiuso. 9.000 euro mi ho tenuto, hai capito? Questi buoni, la collezione mi sembra che sia completa. Non ti ascolta comunque, Roberto. Ok, Pinuccio sta sempre buscando radio d'epoca, hai capito, baracchini, io ne ho troppi, mi lascio questi, non ne muovo neanche uno, però buono, non ne porto neanche uno più, riprendilo bene. Ma oggi lo tiro fuori, meglio del solito, però stanno me lo metti di fuori lui, vabbè aspetta che ritorniamo, tornavamo prima perché non mi interessa salire così. C'ho il QRM, è vero, proprio bassissimo oggi, due, QRM, è una giornata strana, dai, mi aspettavo con tutto il problema della pioggia che ha fatto oggi, qualche peggioramento di situazione di ascolto, invece no. Ok, avanti di nuovo Antonio. Cappa. Lo sento benissimo a Capri 2, un Santiago di 5, perfetto. Ma quale miglioria ha fatto? Antonio, intanto miglioriamo un po', no? Posso arrivare anche di più, però già basta così. Miglioria Antonio un po' le radio che abbiamo messo a punto. Già si fa sentire, no? Ce lo sto usando un microfono amplificato, un vecchio apparato. Niente di più Antonio, è un aiutino. Hai capito? E quindi, giusto per sentirsi, ma la sento anche a te, capito? Sento bene anche a te, cosa che con certi altri apparati non mi arrivavi. Per esempio, con il modulatore prima, col MIDI non riuscivi a arrivare. sentivo che le modulavi, però non riuscivo, qui è comprensibilissima. Anzi, Robby, ti dirò che quando parli devo tenere il volume quasi allo zero di questo apparecchio, perché rimbomba in tutta la casa, e riprendi. Ma sono troppo alto di radio, dici? Aspetta, ma lontano un pochettino, ti vedo, sono a 80 centimetri adesso. No, non è così, è proprio questo che è potente, c'è una recensione, guarda, fenomenale questo apparecchio. Comunque la modulazione ti piace, Gianni? Bellissima, bellissima, guarda, appena è, adesso la freddiamo, aspetta, no, glielo metto anche io quel microfono, se, perché l'ho sentito che va alla grande, Roberto, va alla grande, io ho solo l'altro 508, però mi sta dicendo, adesso che hai fatto la prova, che senza l'equalizzatore so già come si sente, quindi manco glielo testo, hai capito, l'avevo comprato così, giusto per averlo, però quello che c'è tu è decisamente superiore. Allora Pinuccio, dimmi in quel tipo d'uso cosa state combinando, se sei consciente di buona forchetta, dimmi un po'. Io sono due anni che riuscire, mi riuscivo di rivolta che muovere questo odore con la mondezza che passava oggi, la plastica con le colline differenziate. E niente, no, io devo rimanere a dieta perché ho mangiato il giorno di Natale e un po' ero così dalla vigilia e ho buttato qualcosa, poi di notte mi ho cenato quattro clementini, oggi ho mangiato come se dovremmo pesante, quindi stanotte diciamo facciamo dieta di nuovo, no, è troppo, capito, queste cose accelerate, assaggi una cola poi l'altra ti riempiono. A dieta, a dieta, riprendi Antonio, non riprendi, Robby, riprendi. Ecco, ti faccio sentire la memorizza questa modulazione, questo è il 908, Gianni, un secondino ti attacco l'altro subito. Ok, adesso c'è il 908 e poi attacchi? Questo è il 60, questo è il microfono che utilizzavo sino a ieri e tutti i giorni, guarda un po' cosa è cambiato. Il 60 hai detto? Questo è il 60, sì. Sì, questo è più prepotente, però l'altro è più lineare come modulazione, preferisco l'altro di qui, più lineare, come si chiama, quello, il 908, vabbè, quello ho già una cosa proprio prepotente nel 60. È presente che il 908 era al minimo come regolazione, posso fare tutto quello che voglio con quello, posso moltiplicarlo 10 volte più forte, lo posso fare, però non voglio alzare troppo per non dar fastidio a nessuno. Comunque questo è il 60 e ti riattacco immediatamente l'altro. Mi devi dire chi spinge di più, questo, così, in questa posizione, questo è il 908, chi è più forte dei due? Diciamo l'altro è più prepotente, però questo non dispiace, poi si prova a alzarlo un po' il 908, credo. Guarda, adesso no, non lo voglio toccare dalle regolazioni che mi hanno dato, e adesso mi sono avvicinato un pochettino, dai, questa è la distanza più vicina di quanto stavo parlando prima. Che non dispiace, l'altro è più quando schiacci proprio, però questo non dispiace, in questo lo puoi equalizzare, diciamo, poi te lo puoi regolare a piacere tu, invece con l'altro no, non lo puoi equalizzare, capito? In più c'è quello dell'otto, perché l'MC60 da schiere quelle, invece qui c'è le regolazioni, mi sembra una cosa più, ma come lo vedo io, migliore, dai. Ma questo è con l'equalizzatore inserito, tieni memorizzata questa modulazione. E questo è senza l'equalizzatore, se tu metti 508 lo ascolti così il 44, questo è con l'equalizzatore escluso e questo è con l'equalizzatore inserito, sono al minimo come livello, posso anche aumentare il compressore, questo è il compressore al minimo, questa è la posizione media e questa è la posizione massima, però stai mescando, niente. Ok, alla grande Roberto, alla grande, quando tocco il compressore qui è una bomba, una bomba. Immagino per un manco adesso, lo senti a Roberto, adesso è attaccato una bomba, attaccato. Con piede, chi è che sta parlando? Sì, per un certo manco adesso si sente. E sicuramente le posizioni, diciamo, non sono favorevoli, hai capito? E così Roberto, no, ma va alla grande il 508. poco, molto bello, mi sono ricordato, infatti si nota la differenza da un paracolo all'altro, ossia quando metti l'equalizzatore e quando lo escludi, no? È interessante come microfono. Antonio Bombolo, ci sei, avanti. Scappa che ci sono, come mi senti con questa radio? Bene a tutti, sento bene, riesco a capire, Santiago 3 è comprensibilissima, hai capito? Ti sento benissimo, prima non riuscivo mai a ascoltarti, non so se con la serie hai fatto anche qualche miglioria tu, diciamo che questo è un altro apparecchio che sto usando, magari c'è una recensione più sensibile, non lo so, comunque arrivi bene al tuo arrivi, ripeti ancora. Caffa, no, adesso ho sentito l'apparecchio, quello c'era acceso. Adesso sto utilizzando un intake, ma un intake, un Alphayet, un Alphayet Zeus, di nuova concezione. Dovrebbe andare bene, sì. Di quelli big, non so se l'hai mai visto, di quelli che vende Fusaro. Va benissimo Antonio, e tieni presente che sei da dove modulo e quindi io per la tua zona non sono molto favorevole, capito, però l'avevo bloccato dalla macchina l'altra volta, basta che facevo appena appena 200 metri di salita arriva via bomba in macchina, e nel QTH mio dove è impostato che per la tua posizione non è favorevole, comunque la stazione tua è ottima perché l'avevo già sperimentato dalla barra mobile e roba ripeni. Vabbè, come mi stai ascoltando, tu? Benissimo, Robert, benissimo. E tu come mi ascolti con questa? Aspetta, se riaccendo una cosa, te lo dico subito. Scusa un po'. Prova a parlare. 2, 3, prova, vado a vedere come mi senti. È una radio normale questa, Anto, la radio è chiara, però se vuoi essere pignolo ti mancano tutti gli acuti, è un po' nasina, come c'è molte tonalità medie in prevalenza, per cui sembra che sia un po' nasina, però la radio è 5, niente da dire, magari prova ad attaccarci un altro microfono e vedi un pochettino, vediamo il livello se puoi, vabbè se non è preamplificato per cui più di quel tanto, fammi vedere come è il livello se è molto basso. Capo, ora vedere un po', ma non mi interessa, questa deve stare così, Robè, hai capito? Deve stare così e basta. Questa la lascio stare così, gli altri radio posso farle quello che voglio, questa la lascio stare così. Sì, sì, no, è una radio tranquilla, niente da dire, non c'ha, come si chiama, niente di, diciamo, se vuoi essere pilota l'ho detto, però la radio è chiara, va benissimo, nient'altro. Ok, già nei capri riprendetemi il mic, io tra qualche secondo stacco così vi devo salutare perché mi sa che è ora di mangiare la pappa. Ok, e quindi aspetto il finalino, vi saluto tutti e due, gli eventuali amici in ascolto, Pinucetto non mi ascolta, comunque salutatemelo da parte vostra, chi riesce a parlarci, io devo fare QRT, dai. Ci sentiamo, buon tutto e buon proseguo di serata. E ok, Robert, ripeto io, allora no, anche io mi assento, giusto, non ce ne ho niente, però mi assento per, hai capito, per essere almeno a tavola, almeno a presenziare a tavola, tutto lì. E quindi ti saluto, buona carica, Robert, se più tardi entri io me ne salgo qui un altro po', tanto non ho dormito, me l'ho fatta stasera. Saluto anche Antonio, un saluto e i miei migliori auguri al QRA familiare e anche a Pinocchetto, dopo nel caso io me ne risalgo se c'è gente. Riprendo a modulare, adesso presenzio a tavola anche se non ho voglia di cenare, però presenzio almeno per la compagnia. Di nuovo buon tutto a tutti, anche io passo il cuore di SK e rilancio tutto a Pinocchetto, poi ripetino. Ok, perfetto, mi saluta Pinocchetto il Moro da Buduso. Ok, Nato, ti rilancio e non neanche lo spengo, lo lascio in quei rei che ascolto e scendo a sedermi a tavola. Ciao Antonio, riprendi. Cappa, saluto di Capri 2, ce la ricettiamo alle prossimine anche a te Roberto. Ce la ricettiamo tutte le prossime, buona serata a tutti, dai.